Mentirei, suppongo, se affermassi che si manifestò quel giorno la dolorosa e persistente diffidenza che Albertin doveva ispirarmi, e a maggior ragione il carattere particolare, soprattutto lesbico, che tale diffidenza avrebbe assunto. Certo è che la mia attesa risultò già allora, ma non era la prima volta, un po' ansiosa. L'assenza di Françoise durò così a lungo che cominciai a disperare. Non avevo acceso la lampada. La luce del giorno era quasi scomparsa. Il vento faceva schioccare la bandiera del casinò. E, più fievole ancora nel silenzio della spiaggia invasa dall'alta marea e simile a una voce che traducesse e accrescesse la snervante vaghezza di quell'ora falsa e inquieta, un organetto di barberia, fermo davanti all'albergo, suonava dei valzer viennesi. Finalmente Françoise arrivò, ma sola. «Ho fatto più presto che ho potuto, ma lei non voleva venire perché le pareva di non avere i capelli a posto. Se non è stata un'ora d'orologio a impomatarsi, ci è mancato poco. Sembrerà di essere in una profumeria fra poco. Sta venendo. Si è fermata un attimo a sistemarsi davanti allo specchio. Credevo di trovarla già qui». Passò ancora parecchio tempo prima che Albertina arrivasse, ma questa volta la sua allegria, le sue premure, dissiparono la mia malinconia. Mi annunciò, contrariamente a quanto mi aveva detto un paio di giorni prima, che sarebbe rimasta per l'intera stagione e mi chiese se non avremmo potuto vederci ogni giorno come il primo anno. Le risposi che per il momento ero troppo triste e che l'avrei fatta invece cercare di tanto in tanto, all'ultimo momento, come a Parigi. «Se mai vi prendesse l'angoscia o ve lo suggerisse il cuore, non esitate», dichiarò. «Mandatemi a chiamare, verrò di corsa, e se non temete che faccia scandalo in albergo, resterò tutto il tempo che vorrete». Françoise, nel portarmela, m'era parsa contenta, come ogni volta che dopo essersi data da fare per me, riusciva a soddisfarmi. Ma Albertin, in quanto tale, non aveva nulla a che vedere con questa contentezza. E già l'indomani Françoise m'avrebbe rivolto queste parole profonde. «Il signore non dovrebbe vedere la signorina. L'ho bella capito io che tipo è. Vi darà dei dispiaceri». Riaccompagnando Albertin, scorsi attraverso la sala da pranzo illuminata la principessa di Parma. Mi limitai a guardarla, destreggiandomi in modo da non essere visto. Ma trovai, confesso, una certa grandezza in quella sua regale cortesia che a Palazzo Guermantes m'aveva fatto sorridere. Che i sovrani siano ovunque a casa loro è un principio che il protocollo traduce in usi morti e senza valore. Quello, ad esempio, per cui al padrone di casa si impone di starsene con il cappello in mano come segno della sua consapevolezza d'essere non già l'anfitrione, ma un ospite del principe. Ora, di questa idea, di cui forse non aveva nemmeno piena coscienza, la principessa di Parma era così imbevuta che ogni suo atto, spontaneamente inventato in funzione delle varie circostanze, la traduceva in pratica. Alzandosi da tavola, diede una cospicua mancia ad Aimé, come se fosse stato lì solo per lei. Un maggiordomo addetto al suo servizio, cui, andandosene da un castello, stesse elargendo una ricompensa. D'altronde non si limitò alla mancia, ma gli rivolse, sorridendogli graziosamente, alcune parole amabili e lusinghiere, di cui l'aveva attrezzata sua madre. Ancora un po', e sarebbe arrivata a dirgli che l'albergo era tanto ben tenuto quant'era florida la Normandia, e che a tutti i paesi del mondo lei preferiva la Francia. Un'altra moneta scivolò dalle mani della principessa in quelle del sommelier, che aveva fatto chiamare per esprimergli la propria soddisfazione, come un generale dopo aver passato in rivista le truppe. Il lift sopraggiunse in quel preciso momento a portarle una risposta. Ebbe anche lui una frase, un sorriso e una mancia, il tutto costellato di parole incoraggianti e umili, perché nessuno si sentisse inferiore a sua altezza. e me, il sommelier, il lift, e gli altri stimarono che sarebbe stato scortese non sorridere fino alle orecchie a una persona che dedicava loro tanti sorrisi, così che la principessa fu ben presto circondata da un gruppo di domestici con i quali conversò benevolmente. E poiché maniere siffatte erano inconsuete negli alberghi di lusso, la gente che passava dalla piazza, ignorando la sua identità, credette d'avere davanti agli occhi un abitué di Balbec, la quale, o per mediocre estrazione o per qualche interesse professionale, come moglie forse di un piazzista di champagne, fosse meno distinguibile dai domestici che non la clientela veramente chic. Quanto a me, pensai al palazzo di Parma, ai consigli per metà religiosi, per metà politici, impartiti a questa principessa che si comportava col popolo come se dovesse conquistarsene il favore al fine un giorno di regnare, anzi, come se stesse già regnando. Risalii in camera mia dove peraltro non ero solo. Sentivo qualcuno suonare con grazia vellutata dei pezzi di Schumann. Certo, può capitare che le persone, persino quelle che prediligiamo, si saturino della tristezza o dell'irritazione che emanano da noi. Ma c'è qualcosa la cui capacità di esasperarci non sarà mai uguagliata da alcun essere umano. Ed è un pianoforte. Albertine mi aveva fatto prendere nota delle date in cui si sarebbe assentata per brevi soggiorni presso certe amiche e aveva anche voluto che ne trascrivessi l'indirizzo per il caso che una di quelle sere avessi avuto bisogno di lei, tenendo conto che nessuna di loro abitava molto lontano. E così, per poter trovare Albertine, s'annodarono con assoluta naturalezza attorno a lei, di fanciulla in fanciulla, dei legami fioriti. Oso confessare che parecchie delle sue amiche, ancora non l'amavo, mi regalarono, su questa o quella spiaggia, istanti di piacere. Quelle giovani, compiacenti compagne non mi sembravano all'epoca molto numerose, ma recentemente, ripensandoci, i loro nomi mi sono riaffiorati alla memoria. Ho calcolato che in quella sola stagione non meno di 12 mi concessero i loro esili favori. Poi mi ricordai d'un altro nome e furono 13. Mi morse allora un'infantile crudeltà di fermarmi a quel numero. Ahimè, dimenticavo la prima, Albertine, che non era più, e fu la 14ª. M'ero annotato, per riprendere il filo del racconto, nomi e indirizzi delle fanciulle presso le quali avrei potuto rintracciarla in questo o in quel giorno della sua assenza da Ankerville, ma pensavo piuttosto d'approfittarne per far visita a Madame Verdurin. D'altronde, i desideri che proviamo per donne diverse non hanno sempre la stessa intensità. Una certa sera non possiamo fare a meno di una che poi, per un mese o due, non ci procurerà alcun turbamento. Inoltre, le ragioni d'avvicendamento, che non è il caso di studiare in questa sede, dopo i grandi affaticamenti carnali, fanno sì che la donna la cui immagine ossessiona la nostra momentanea senilità sia una donna la quale non domanderemmo altro quasi che di poterle posare le labbra sulla fronte. Per quanto riguarda Albertine, la vedevo di rado e solo le sere, notevolmente distanziate fra loro, in cui m'era impossibile rinunciare a lei. Se un tale desiderio mi coglieva quando lei era troppo lontana da Balbec perché Françoise potesse raggiungerla, spedivo il lift a Aigreville, alla Sogne e a Saint-Frichoux, chiedendogli di terminare un po' prima il turno. Quando entrava in camera mia, lasciava la porta aperta perché, pur diligentissimo nel suo lavoro, che era molto duro, in quanto comprendeva una lunga serie di pulizie a partire dalle 5 del mattino, non sopportava la fatica di chiudere una porta e se gli si faceva notare che era rimasta aperta, tornava indietro e, producendo il suo massimo sforzo, la spingeva leggermente. Con l'orgoglio democratico che lo caratterizzava e cui non giungono nelle carriere liberali gli esponenti di professioni abbastanza diffuse, avvocati, medici, letterati, i quali si limitano a chiamare un altro avvocato, letterato o medico collega, lui, usando a buon diritto un termine riservato agli organi ristretti, per esempio le accademie, mi diceva, parlando d'un fattorino che faceva il lift a giorni alterni, «Vedrò di farmi sostituire dal mio socio». Questo orgoglio non gli impediva, trattandosi di incrementare quello che definiva il suo stipendio, da accettare per le commissioni affidategli dei compensi che l'avevano reso inviso a Françoise. «Eh sì, la prima volta che lo vedi sembra un angioletto, ma certi giorni è morbido come una raspa. È tipico delle sanguisughe». Categoria a cui aveva scritto così spesso Eulalie e nella quale, per sventura, alla luce di tutti i guai che ne sarebbero un giorno derivati, situava sin d'ora Albertine, già che più volte mi vedeva chiedere alla mamma, per l'amica non certo ricca, qualche oggettino, qualche fronzolo, cosa che Françoise trovava ingiustificabile dal momento che Madame Bonton aveva solo una domestica a tutto fare. Ben presto il lift, spogliatosi di quella che io avrei chiamato la sua livrea e lui denominava la sua giubba, ricompariva con tanto di cappello di paglia e bastone da passeggio, badando a stare ben dritto e a controllare l'andatura, perché la madre gli aveva raccomandato di non cadere mai nel genere operaio o fattorino. Come, grazie ai libri, la scienza diventa accessibile a un operaio che non è più tale una volta portato a termine il lavoro, così, grazie alla maggiostrina e ai guanti, era l'eleganza a diventare accessibile al lift, il quale, finito per quella sera di far salire i clienti, poteva credersi, come un giovane chirurgo che si è sfilato il camice, o come il maresciallo d'alloggio Saint-Loup, senza uniforme, trasformato in perfetto uomo di mondo. Non era del resto privo d'ambizione, né mancava di talento nel manovrare la sua gabbia e non farla fermare a metà fra due piani. Il difetto stava piuttosto nel modo d'esprimersi. La sua ambizione mi si rivelava quando, per designare il portiere dal quale dipendeva, diceva «il mio portiere», con lo stesso tono con cui il proprietario a Parigi, di quella che il fattorino avrebbe definito una palazzina privata, si sarebbe riferito al suo portinaio. Quanto al modo di esprimersi, è singolare che, pur sentendo chiamare 50 volte al giorno dai clienti «ascensore», lui personalmente dicesse sempre «e soltanto ascensore». Certe particolarità in quel lift erano estremamente fastidiose. Qualsiasi cosa gli dicessi mi interrompeva con una locuzione «ma si capisce?» oppure «si capisce?» dalla quale si sarebbe potuto arguire o che la mia osservazione era d'una tale evidenza che chiunque ci avrebbe pensato, o che lui stesso se ne attribuiva tutto il merito col segnalarla alla mia attenzione. «Ma si capisce?» o «si capisce?» esclamato con la massima energia, gli saliva ogni due minuti alle labbra per cose che non gli sarebbero mai venute in mente, il che mi irritava al punto da farmi dire subito il contrario per dimostrargli che non aveva capito niente. Ma alla mia seconda asserzione, sia pure affatto inconciliabile con la prima, lui non mancava di commentare «ma si capisce? Si capisce?» come se tali espressioni fossero qualcosa di inevitabile. Facevo fatica anche a perdonargli d'usare certi termini specifici del suo mestiere, che sarebbero stati dunque perfettamente acconci in senso proprio, soltanto in senso figurato, caricandoli di un'intenzione spiritosa abbastanza cretina, per esempio il verbo pedalare. Mai che ne facesse uso quando ritornava da una commissione in bicicletta. Se invece camminando aveva accelerato il passo per giungere in tempo, volendo significare che era andato di gran carriera, diceva «una bella pedalata, credetemi»,